Diventata insicura, hai alzato queste mura, troppo alte sale per questo amore. Si è trasformato il cuore in un giorno senza sole, non sopporto più l'indifferenza. La tua assenza è troppo per me, non riesco a respirare, io mi sento soffocato. Io ti chiedo solo di capire, per non soffrire e poi morire. Dai un senso a questo amore, dai un senso al mio dolore. Non ha senso se ti perso, non è giusto tutto questo. Ammazza il tempo ciò che sento, e da allora più semplice sarà. Ho cercato di guardare al di là di questo mare, questa storia è da rifare. Non vorrei esagerare, è la rabbia che ti parla. Io ti prego no, non ascoltarla, sei troppo importante per me. Sei ancora molto assente, come se non fosse niente. Ti avvicini poi, ti allontani, non dimmi tu come sarà domani. Dai un senso a questo amore, dai un senso al mio dolore. Non ha senso se ti penso, non è giusto tutto questo. Ammazza il tempo ciò che sento, e da allora più semplice sarà. Sarà vorrei toccarti, non amarti, ma questo proprio no, lo so, non riuscirò. Dai un senso a questo amore, amare un altro. Dai un senso al mio dolore, non ha senso se ti perso. Non è giusto tutto questo, ammazza il tempo ciò che sento.